Antonio. Ciao Antonio, sta chiamando 5C Radio 4, dove sei? Sono in Campania, ma vuoi? Ah, Franco sì. Basta. Quando sei a casa tua? In Campania sono a casa. Santiago 7 Radio 4, fra. Comunque ti assolto, c'è anche Gio Maria. Ciao Gio Maria, buongiorno. Ciao fra. Ciao, va bene, va bene. Anche se sei campagnolo, ma calda fin meglio. Ma sei lui da noi, no. Ma quello c'è la vita. Hai sede, Manuele. E da una finuta. Da Ed, una finuta. E io che sei caldo. Ma radio, è buona, Gio Maria. Ehi, che altro esce male, gli altri udissili, però, gli avvisaglia. Ah, ecco, sto uscendo bene. Sto uscendo bene. Ma che altro la stai usando, fra? Allora, sto usando la Rumba Radio con lo successo 80 e l'MC60, capito? Vabbè, una notte vanno troppo buonissimi sopra. Se non c'è ora, non lo può fare, adesso vogliamo. Anche da un certo di tempo, volevo piazzarla. Come ascolti lì in campagna? 105 sì. Andare dai, va benissimo. Ma credo che per avanzare la radio, ma se va bene la scuola. No, va bene così, fa, guarda così, andare così. Ma guarda la roba. E scrivete che Mario è combinando di bello. E cosa? Niente. Cosa vuoi combinare in questo periodo? Ti ho fugato, niente. Magna e cocca, cosa vuoi fare? Anche qua c'è caldo, e io mi metto lo stesso, anche in campagna c'è caldo. È caldo dappertutto, quando fa caldo è dappertutto, ma la sorte, è purtroppo così. Però è tempo suo e anche il caldo lo deve fare, per cui non ci dobbiamo lamentare più tanto. Avvio. E in Africa va più caldo ancora, come faranno quelli a resistere? In Africa è più caldo di noi. No, sono abituati, che pure a Pisquanta. Avanti, Manuel. Riprendo subito, un attimo, Gio Maria, riprendo a Franco. Oh, il presidente Barri, com'è fra la radio? Com'è questa radio? Passaggio. 2-3 Pro, avanti, 40 canali, AM, FM, omologato, Qua, qua, sì, Santiago 8, 7, 8, Radio 5, buona. Anche questo, sì, è omologato e va bene, con un bastone di scoppa che sto uscendo. Vuol dire che gli altri sta andando bene, dai. È a buio, quando è. Ok, bene, bene. Beh, e tu cosa mi racconti? Però quello che ti racconto, Gio Maria, sempre bene la che cosa. Adesso mi si chiamato il tiro dell'MC60, dove era qualcosa, una massa attaccata, capito? Sai, sai fare queste cose, per cui non è difficile per te, capito? Sai, facile a mettere a posto tutto. Vabbè, ecco che ho scelto usando il posto, capito? Va bene, va bene. Va bene, dai, andate. Hai sentito un attimo che devo fare altre cose? Fai. Sono entrato giusto per provarlo. Non so se è come domani che lo chiudo, là. Fai. Buongiorno, buongiorno. Casa la vedi? Beata. Ah? Beata. Alla grande stai uscendo. Buongiorno, letto. Caldo ne avvette. Va a morire. Con il birichino piccolino, cazzo. AM, FM, 40 canale, monogazzo, là. Presidente Barri, cazzo. Piccolino, ma sembra abbastanza pulito, va. Sì, io sto scendo con la 48 e il tarne più 3, anche il microfono normale non mi piace. Esce cubo. Capito, allora 48, 40 canali, omologato e via, mi mangio 4, 3, 4, 5 watt modulati. Ma che c'è anche Emanuele Gio Maria? Sta aspettando un attimino, anche Franco California sera, campagna. Manuele sta aspettando un attimino. Oh, Franco Galifo, andi è, Califano. Aspetta, sta rientrando subito, anche quello sta aspettando un attimino, sta rientrando subito. Sono in zapparati, avanti a due bambini, fare la ora secca, va. Vinne Eva e la fontana, Emma e Fra, Manuel. Ehi, Fra, Asco, Matti, il Torino, sentite, vai. No, siamo sentiti ieri sera, gli ho detto di fare il piede di giù prima, nuovo. Capito, se non è quello lì allora bisogna mollare i cosi e abbassare e rifare il PL sopra, perché sicuramente l'abbiamo staccato come abbiamo tirato, vatto, capito? Secondo me sì, è quello che sto pensando anche io, che quando si è girata l'antenna era caduta giù. Eia, no, quando poi l'abbiamo messa a posto, che l'abbiamo smontata, abbiamo cambiato il palo, fatto il buco, eccetera, che abbiamo avvitato il PL, fino a via mi gru PL attaccato, passamela qui, tienila lì, tirala lì, capito? E si deve essere allentato il PL o staccato, bisogna riabbassarla e rifare quel PL, ed è tutto a posto. Però è troppo gaglio oggi, capito? Non fa, al limite domani mattina presto, boh. Io domani, cazzo a farla oggi, cazzo un cazzo, ui. No, al limite domani mattina, boh, non lo so. Non lo so, perché io mi sembra che domani sono veramente a piedi, non lo so, ma se no quella lì la stacca e usa l'altra, cazzo, gli ho detto usa quella della macchina, ti allunghi l'ugavo, quello va ridotto, era buono, dopo l'ho proprio messa io in quel pezzo di tubo. Cazzo, ma lo sai, Oscar, ti sembra ridicolo. Arriva lo stesso segnale, anzi forse un poco di più di l'antenna, di radiscoma. Tagliito di Sant'Anna la canoada, io in macchina con quell'antenna VU, da Giaffe, mi dillo a Vittorio Giove, io da Giaffe parlavo a 145, 525 in diretta, da Giaffe, dall'impianto di Giaffe. Ma figurati, no, ieri usciva bene con quell'antenna lì. Se glielo data è perché funziona, io non gli do quelli così, cazzo per la vostra fa un regalo a un amico e do quella cosa che non funziona. L'ho detto usatela tu, che intanto io non ne metto più in macchina. Tu lo metti in macchina e così c'è l'antenna. Ma molto bene, mi arrivava a 7 a me con quell'antenna attaccata al gojo, di lo va come, figurati, ci mi gira le balle, già c'è una volta, ci discone, te lo chiudo la mondezza, le metto una staffettina e ci metto quell'antenna sopra. E quale? Quella veicolare? Cazzo, se ti sto dicendo che c'è una bomba, io qua lo sentivo benissimo. La gemella di quella l'ho lavorata a Massimiliano, le ha messo un palo, le ha fatto una staffettina, l'ha messa con un tubo di un paio di metri, arriva a 9 a casa dagli punti. E allora l'avevi un po' chiusa, solo che le serve per macchina. Le serve anche in macchina, perché quella che mi hai dato, che sto cercando di modificare, non si intende nulla, l'ha già attaccata, è sopra una piastra, fuori nella finestra, una piastra in ferro, non riceve niente, nulla, non ha giù inteso nessuno, ma non i PMR, non i frequenti amatoriali, mentre con quella lì io, per esempio nell'Inchi Nazionale, arrivavano tutti in fondo a scala con quell'antenna lì, capito? Figurati, vabbè, comunque adesso bisogna abbassarla quella lì e rifare il PL, perché sicuramente si è staccato, ma è una fesseria abbassare quella lì, già l'hai visto, è una stronzata. Hai compreso Giovanni con il suo teso? Abbiamo piazzato tutto, tira che ti tira, molla che ti molla, fascetta qui, fascetta là, si deve essere staccato l'UBL. Quando ha chiesto il controllo, che mi ha fatto Emanuele, ha avuto il controllo, io lo sentivo perfetto. Perfetto qua. Solo magari da voi non arriva, ma una cosa strana è. Senz'altro è così, deve essere le piede di staccato, perché sennò a sentirlo io, voi no, è una cosa strana veramente. Senz'altro è così. Cioè, è staccato PL. Sì, perché lui ha detto che quando inserisce la punta del PL riceve bene, quando va a avvitarlo il PL non riceve più niente, quindi è in corto, si è staccata il puntale, capito? Sta ricevendo solo con la calza. E infatti dovrebbe essere così, infatti. Ma noi non credo anche meno che stanno chiamando. Sì, allora se li fa così, ok, bisogna lasciarglielo mollato il coso del PL, l'avvitatura. Ma non va bene, Manuel, stai uscendo solo con la calza, non stai uscendo col centrale. Il segnale non è quello, e poi ti carica, ci sono stazionari, il PL va avvitato, capito? va vittato, bisogna abbassarla e rifare il PL. Però io era giudito, per non sapere né leggere né scrivere, non si sa mai. Fai quello di giù prima, nuovo, controlla, poi cazzo c'ha il test, lui conosce il test, basta controllarlo, no? Sì, lui c'ha il test, infatti. Mette il test e lo sa subito. Controlla prima quello di giù, se vede che è in corto è quello, se no è l'altro. Cazzo, strano. Sì, ma noi, cazzo, l'ha fatto a me, il lavoro finito. Con la Mantova, capito? L'ha fatto a me, il lavoro finito con la Mantova. Ho messo tutto, anche i tiranti. Sono sceso giù e non avevo la ricezione. E tu hai sentito, no, qui controllo, niente. Controllato quello di giù, niente. Cat mig era quello di su, ho dovuto riabbassare e rifare il PL. Può succedere, basta che lo tiri appena, anche mettendolo, attaccandolo, mettendolo, si può staccare, oppure la casa sta toccando al polo centrale, capito? Sicuramente. È da svitare, da passare con l'antenna, a svitare il PL e rifare il PL. E vedrà che funziona bene. Perché quando usciva lui, che non mi sentiva, io sentivo a lui, a me non mi sentiva, non mi sentiva, ma a te il segnale c'era, perché c'era, e la notte. Ma in trasmissione va bene, in ricezione che non ne ha, se avesse staccato qualcosa. Vabbè, dai, io rimango in ascolto, Manuel, che devo preparare il pranzo, che loro sono andati a fare la spesa e devo preparare il pranzo. Già comunque è tutto acceso, anche l'altra. Se lo sento, se no chiamalo tu e diglielo di controllare col testo del piede di giù, capito? Se no quello di su, è una cazzata fare quello lì. Bisogna abbassare, mollare quelle viti e abbassare appena l'antenna. Sì, senza smontare il palo, cioè, abbassare solo le vite e basta. E poi si stacca il PL. Dobbiamo caricare tutta la riba con PL, no? Ah, no, si prende quella chiave a brugola, si toglie l'antenna, capito? Si toglie l'antenna con la scala stesso. Con la scala stesso, capito? Si toglie l'antenna e si controlla il PL e poi si riattacca, no? Non ci vuole niente, non c'è bisogno di smontare niente. Comunque, l'antenna è piazza da Vera, prima era piazza da Ari, ma adesso è piazza da bene l'antenna. Ti direi coglione che cazzo non riceve agli altri adesso. Sì, ma la fesseria già si mette a posto. Però nel frattempo devo posare quella della macchina, che esce un bel bene. E non rimani a piedi. Poi se non lo vuoi fare oggi, non lo vuoi fare domani, ci va di luni, non è un problema, intanto siamo a. No, lui lunedì rientra al lavoro. Lunedì non ci siamo neanche noi. Infatti. Dobbiamo andare già, o si fa martedì direttamente. E che tu martedì non ci sei neanche, sta lavorando. Ah, ma non mi comanda nessuno, non c'è problemi. Non ne ho problemi, ci mettiamo d'accordo, non ne ho problemi. Se voi lunedì dovete andare là, o si fa lunedì sera, quando rientrate, oppure si fa martedì mattina. Ma adesso vediamo. Se magari domani mattina, anche se io sono a piedi, la volete fare voi, è una fesseria farla. Sì, ma si può fare anche noi, lo facciamo anche noi, non è che c'è un problema. Passare il tubo, mollare il coso dell'antenna e scansare il piede, un cavallo di misura, che attacca tutto e ripone la busta. Sì. Se proprio per fare una cosa fatta bene, con le fascette mi devi togliere. Devi togliere quelle fascette e poi le rimetti nuove. Abbasci lo dubbio e travagli meglio. Solo con le fascette ce la togliamo, Emanuele. Non ce la fare molto. Sì, già lo so, già lo so. Mi attento anche io che devo preparare anche io da mangiare. Ok. Casomai ci sentiamo più tardi. Ehi, è tutto acceso qua. Là. Sentiamo dopo, anch'io me devo allontanare. Se vuoi, chiamami anche dall'altra parte. Ciao. No, devo andare acceso anche io qua. Devo andare acceso anche io. Dai, ci sentiamo dopo. Gappa.